Andrea Zani, il giocatore più completo sicuramente dell'Italia, ma non solo, che però viene intervistato per il suo straordinario talento in difesa, anche ricezione, ma in difesa. Allora, partiamo da visualizzare e da pensare. Quando tu sei in difesa, cosa guardi e cosa pensi? Intanto guardo il braccio dell'attaccante e la palla. E di conseguenza, questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, vedo arrivare il muro e come si piazza il muro. Sono millesimi di secondo e quindi prendo la posizione in base a questi due fattori. Credo che l'insegnamento che ho avuto nel corso della mia carriera, l'insegnamento che mi è arrivato da alcuni allenatori come Primis Giulio, che la difesa è un qualcosa che devi anticipare. Cioè, se tu aspetti che ti arrivi la palla, la palla non arriva mai addosso a te, non sei mai colpito dalla palla, ma sei tu che devi andare a cercare la palla. Per cercare la palla devi innescare un ragionamento che deve essere velocissimo. Che tipo di palla viene alzata, la ricorsa dell'attaccante, quindi il braccio dell'attaccante, e come si posiziona il tuo muro. Sono millesimi di secondo, sono ragionamenti molto rapidi, però li devi fare. Se non li fai, non hai secondo me tante possibilità di raggiungere il pallone. Però per fare questo, per valutare l'alzata, la posizione dello schiacciatore, il muro che arriva, gli automatismi devono essere particolarmente fluidi, quindi anche molta esperienza. Ma questo è un ragionamento che non fai solo durante una partita, lo devi fare sempre. Io quando mi alleno, fondamentalmente, anche quando faccio palla a coppie, è una cosa che visualizzo in automatico, non la visualizzo, visualizzo il braccio, quindi vedo che tipo di alzata gli arriva al mio compagno quando attacca e mi piazzo, cioè riesco a cercare di decifrare prima il tipo di pallone che l'altro cerca di attaccarmi addosso. Quando facciamo squadra uguale, per cui se tu ti abitui a questo sistema diventa più facile poi in partita che sia così automatico. Quindi accumuli informazioni sui compagni, sugli avversari, sì, che poi naturalmente vengono fuori elaborati in partita. Sì. A un ragazzino piccolo e lo metti in difesa, il primo esercizio che gli fai fare, quale sarebbe? Quello che mi hanno fatto fare a me è stata la parte prima aerobica, cioè il fatto di saper fare la rullata, di saper fare il tuffo. Perché? Perché in difesa secondo me non devi avere limiti fisici che ti portano a fare un tuffo piuttosto un salto, una rullata, cioè non devi avere paura del contatto col terreno. Il secondo passaggio è l'impatto con la palla, cioè non devi avere paura di essere colpito dalla palla. Secondo me questi sono due passaggi iniziali molto importanti per un ragazzino. Bello sta cosa. Quindi tuffi, rullate, farli bene, ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza, ci vogliono che devi togliere un sacco di crosticine. Io l'ho fatto entrato sul pavimento, sulle mattonelle. Quindi se non imparavi, dopo ti facevi delle escorazioni grosse. Ti ha messo molto a imparare a fare rullata e tuffo? Diciamo che dopo la preparazione iniziale e con l'allenatore che te lo faceva fare comunque costantemente, erano esercizi di riscaldamento di tutti i giorni. Dopo veniva naturale già dopo un anno. E nella pallavolo del 2007 rullata e tuffi si fanno bene o male? Io credo che questa tecnica qui si facciano male perché non vengono più riprodotte nella stessa maniera. Cioè, ci sono giocatori, soprattutto i centrali adesso, che per dire fondamentalmente non hanno tecnica difensiva. Cioè, faccio dei nomi, non so, Cozzi secondo me sembra più un portiere che un difensore. Questo è frutto anche del lavoro, primo tocco libero a mani aperte, sì, e quindi molti in qualche modo... Sì, e di dare un'impostazione anche sulla parte difensiva così, non così precisa e puntuale. Cioè io credo che se guardo la scuola per dire americana, vedo certe cose vengono continuate a fare. Nella scuola europea già meno, a meno che non siano i francesi, forse quelli francesi sono gli unici che danno un'importanza così grande all'aspetto difensivo. Senti, la palla a coppie è proprio l'ABC della pallavolo ed è un esercizio completo. Lo useresti molto sui ragazzini? Sì, perché hai la possibilità di toccare tante volte la palla e di saperla gestire senza avere la rete di mezzo, compagni intorno. Quindi la gestione tua personale con la palla è fondamentale e poi la tocchi tante volte. Proviamo adesso a fare un percorso indietro, perché quando tu ti muovi, il movimento delle braccia, delle gambe, del corpo, i tuffi, la testa, tutti quanti lavorano molto benissimo, però proviamo a sezionarli, partiamo dalle braccia. Tu hai due braccia anche di dimensioni solide, notevoli, ciononostante ti hanno sempre dato un grande controllo, sensibilità. Come hanno messo le braccia? Sulla parte difensiva, secondo me, tanto sono piegate, non sono mai stese. Mani aperte, giusto? Mani aperte, hai un angolo quasi di 90 gradi, tallone al radio e l'omero, e staccate comunque dal busto. Invece tanti difendono con le braccia attaccate al corpo, e questo secondo me non è sbagliato, non ti dà la libertà di movimento, perché comunque si deve muovere molto velocemente il braccio. E il fatto che ci sia questo angolo è perché se colpisci la palla va verso l'alto. Però secondo me tanta sensibilità va fatta, io per dire me l'hanno fatta fare tanta contro il muro, cioè un braccio, palla e braccio contro il muro, perché questo ti dà la particolarità che tu comunque anche con un braccio solo tocchi la palla, la sai gestire, anche se viene via hai un impatto violento. Quindi un po' il gioco con la palla, giusto? Sì, sì. Un'altra cosa importante è un riferimento importante, il rumore, giusto? Sì, ma quello lì dipende un po' da caratteristiche, perché comunque l'impatto che hai col braccio fa rumore, poi dopo quello lì dipende un pochettino dalla dimensione del braccio, però quando uno ha braccia solide, quindi, e dico braccia solide, ma non perché per dire forti, solide perché? Perché uno che gli piace difendere, non ha paura della palla, le tiene in un modo abbastanza rigido, solido, in modo che quando la palla colpisce il braccio, tu senti questo impatto perché lui imprime una forza. Chi ha paura di difendere non imprime questa forza, per cui ha... Passiamo a questo concetto qua della paura di difendere. Cosa vuol dire sfidare l'avversario? Significa non aver paura? Non aver paura di farsi male, ma questo secondo me parte da un principio. Cioè se io da bambino, dall'imprinting iniziale, non mi fanno imparare a non aver paura dell'impatto con la palla, quindi se io da bambino, quando inizio a giocare, non mi insegnano che... È naturale essere colpiti nel volto, è naturale che la palla a volte ti possa far male, e quindi questa paura qui non viene, non ti aiutano a passarla questa paura, ti rimarrà sempre. Ci sono giocatori che rimangono così, cioè, altri giocatori che sembrano che siano più coraggiosi, ma non è che sono più coraggiosi, perché secondo me da bimbi, da quando ho iniziato a giocare, gli hanno insegnato bene che ci sta a essere colpiti, che non è un qualcosa che ti lascia sfigurato, ma è una cosa normale. Adesso c'è la tendenza, un po' in nome del fair play, di chiedere scusa se per caso colpisci uno in difesa. Io reagisco con un po' di nervosismo. Ci sono un po' di... ma è molto individuale secondo me. Cioè, quello che... Se tu vieni colpito in faccia e fa male, ma... Ma io reputo normale, cioè secondo me... Chi mi colpisce non lo fa apposta, fondamentalmente, è nel gioco, per cui se mi chiede scusa, ma non è che lo devo scusare, cioè non è che devo dire che è fatto apposta, è normale, fa parte del nostro gioco, quindi la considero come un'azione come tutte le altre. Altri giocatori invece la prendono come un'offesa personale, cioè come comunque qualcosa che non dovevi fare, per cui cioè, ti richiedono che gli devi chiedere scusa, e se non glielo chiedi si incavano ancora di più. E uno deve soltanto conoscere il tipo di persona, il tipo di giocatore che ha davanti.